Benvenuti a tutti a questa seconda lezione del corso Humash del Kollel Torah a Roma. Abbiamo concluso la scorsa lezione con la descrizione della nascita di Avram, il patriarca del nostro popolo, e non abbiamo trovato molte informazioni a suo riguardo. Ora inizieremo a studiare, ad approfondire la storia di una delle persone appunto più importanti, più amate della nostra storia. Lo conosceremo inizialmente con il nome Avram, che poi si trasformerà in Avraham, o come lo chiamiamo in Am Israel, Avraham Avinu. Noi siamo discendenti di tante delle figure di cui leggiamo nel Tanakh in generale, ma solo tre uomini vengono chiamati con l'appellativo nostro padre e solo quattro donne. E tutti sappiamo, Abraham, Isaac e Jacob, Sarah, Rivka, Rachel e Lea. Perché? Perché quando noi usiamo questi termini, padri e madri, in realtà non vorremmo con questo solamente indicare un fatto biologico, ma bensì che questi sono i fondatori della nazione ebraica, e non solamente nel senso tecnico, ma nel senso che le loro azioni, i loro comportamenti sono quelli che fissano ciò che dovrebbe essere l'azione e il comportamento ebraico. Diciamo, loro hanno spianato la strada, loro l'hanno preparata perché noi potessimo approfondirla, perché noi potessimo soprattutto seguirla, ricevere dal loro, diciamo, ricevere ciò che ci hanno trasmesso e seguire il loro esempio. A livello spirituale si dice sempre, soprattutto nelle opere che si occupano più della mistica, che quando si parla di padri e madri si intende anche che spiritualmente noi siamo. Abbiamo ricevuto in eredità delle qualità che sono state trasmesse da queste figure. E quindi, in questo senso, quando noi studiamo la loro vita, in qualche maniera ritroviamo noi stessi in quelle parole e stiamo studiando riguardo a noi stessi. Il Ramban, a cui ho fatto riferimento nella scorsa lezione, il commentatore Nachmanide, Rabbi Moshe Ben Nachman, scrive il seguente riguardo l'inizio della storia di Abraham, che ora vedremo. Il Ramban scrive: Omar lecha klal, ti vorrei dire una regola generale per ciò che riguarda tutte le parashiyot che riguardano i nostri avi e le nostre madri. E citando innanzitutto i maestri dicono: Masse, kol masche era la avot, tutto ciò che accadde nella vita dei nostri padri, tutto ciò, in altre parole, che la Torah ci riporta dalla loro vita, siman labanim, diventa una indicazione. Letteralmente la parola siman vuol dire segno, si intende dire che questo indica, così come una segnaletica indica a noi cosa fare, come agire, dove andare. La loro vita è la nostra segnaletica di vita. E sono queste tutto ciò che accadde con loro è un'indicazione per noi. E per questo motivo, scrive sempre il Ramban, la Torah allunga nel descrivere le storie della vita dei nostri avi, anche su cose che a volte sembrano essere banali e non così importanti, come i loro viaggi, come il lavoro che fecero, se si trattasse di scavare dei pozzi per l'acqua e così via, e altre cose. Qualcuno potrebbe leggere e credere: beh, queste sono cose che sono scritte così, ma non hanno una particolare importanza, soprattutto non magari anche per noi. Invece, appunto, dice il Ramban, tutto ciò è un insegnamento per il futuro. In quanto su tutte queste tappe della loro vita, appunto su tutte le loro opere, va meditato da parte nostra, bisogna meditare, bisogna approfondire, chiaramente con l'aiuto dei Chachamim e dei commentatori, per capire cosa vuol dire per noi, e in un certo senso tutto ciò che accade per loro poi riaccadrà. Abbiamo visto anche un pochino di questo nella scorsa lezione. Accadrà in maniera collettiva per il popolo, e quindi bisogna approfondire quelle storie che sembrano essere solamente delle storie a prima vista. Allora, qui già abbiamo fatto riferimento ai viaggi, e appunto la Torah apre la storia approfondita di Avram con i viaggi. Auguro di nuovo un buongiorno a tutti quelli che si stanno unendo alla lezione. Come vedrete poi nella versione finale della lezione, che sarà pubblicata dopo la diretta, questa lezione che stiamo facendo oggi è tenuta Leilui Nishmat in memoria dell'anima di Avraham Ben Eliyahu, astrologo. Le figlie Enrica e Letizia hanno voluto dedicare la lezione alla sua memoria, e veramente auguriamo che, come si usa, che sia Leilui Nishmato, per far salire la sua anima sempre più in alto, vicino da Kadosh Baruch Hu. Ora vediamo il testo. Iniziamo direttamente dall'inizio della parasha di Lech Lecha. Io sto usando l'edizione Mamash con la traduzione in italiano. E potete trovarlo appunto nel libro di Bereshit, di Genesi, dell'edizione Mamash, a pagina 134, però potete usare qualsiasi testo, e anche se siete sul computer o anche sul telefonino, potete consultare un testo online eventualmente. Vediamo questi primi versetti della Parashah. La Torah dice: Vayomer Hashem el Avram, il Signore disse ad Avram: Lech lecha, va via, me'arzecha, umi moladetecha, umi beit avicha, vai via dalla tua terra, dal luogo in cui sei nato e dalla casa di tuo padre, e la aretz asher areka, alla terra che ti mostrerò. Ve'eschale goi gadol, farò di te una grande nazione, vavarechecha, ti benedirò, vagadela shemecha, esalterò il tuo nome, ve'ye beracha, e tu stesso sarai una benedizione. Vavarecha mevarchecha, benedirò coloro che ti benedicono, unkalelcha aor, e maledirò coloro che ti maledicono. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. In tuo nome saranno benedette tutte le famiglie della terra. Vayelech Avram andò, kasher dibera elav Hashem, come gli aveva detto, come gli aveva comandato il Signore. Ve Avram vayelechito Lot, e anche Lot andò con lui. Ve Avram ben Chamesh Shanim ve Shivim Shana bezeito Mecharan. Avram aveva 75 anni quando andò via dal suo luogo, dalla sua città, che era Haran. Vaikach Avram prese con sé, per partire, non partì da solo, ma portò con sé tutta la famiglia, quindi Etzarai Ishto, sua moglie Sarai, vet Lot ben Achiv, Lot il figlio di suo fratello, vet kol rechusham asher rachashu, tutti i beni che avevano acquisito, vet hanefesh asher asu beharan, e tutte le anime che avevano fatto a Haran. Cosa significa fare anime? Questo lo vedremo più avanti. Vayetzeu lalechet arza Kenan, partirono per recarsi in terra di Kenan, e giunsero vayavou arza Kenan. E lì appunto giunsero. Vayavor Avram ba'aretz. Avram attraversò il paese, ad Mekom Shechem, fino al luogo di Shechem, ad Elone More, fino alla pianura di More. Veha Kenani az ba'aretz. Allora nel paese si trovavano i Cananei. Vayera Hashem el Avram, il Signore apparve ad Avram, vayomere, disse: Lezaracha eten et haaretz hazot, alla tua posterità darò questa terra. Vayiven sham mizbeach l'Hashem hanireh elav. Costruì là, Avram costruì là un altare ad Hashem che gli era apparso. Poi, vayatek misham hahara, da lì si trasferì al monte, Dove si trovava questo monte, Michedem Levetel Vayeta Olo, che si trovava ad oriente di Betel e piantò lì la sua tenda, Betel Miyam Veha Ai Michedem, Vayiven Sham Mizbeach Lashem Vayikra Beshem Hashem. Lì costruì un altare per il Signore e pregò invocando il nome di Hashem. Ultimo versetto che citiamo ora, Vayisa Avram Halloch Venassoa Hanegba, e cioè Avram partì viaggiando progressivamente verso meridione, verso il sud della terra. Bene, ora, chi è Avram? Ancora non lo sappiamo. Le informazioni che abbiamo in precedenza sono pochissime. Sappiamo chi è suo padre, chi è suo nonno, sappiamo il nome della moglie, dei fratelli, ma non abbiamo altre informazioni qui nel testo della Torah. E allora chi è? Beh, effettivamente la Torah stessa non dà, non fa nessun riferimento a queste informazioni. E ci chiediamo da dove possiamo trarre delle informazioni. E la risposta, come dicevo nella scorsa lezione, si trova nei Midrashim. I Midrashim ci descrivono la vita di Avram fino a questo punto, quando lui lo incontriamo qui, che ha già 75 anni. I Midrashim ci forniscono moltissime informazioni a riguardo della vita di Avram. Molti aspetti di ciò che viene esposto nei Midrashim sono allusi nelle parole della Torah, nelle virgole, nelle precisazioni che la Torah usa, o nella precisione, meglio, ma non sono espliciti, appunto. Avram, in pratica, come sappiamo, è il padre della fede monoteista, che per il momento definiamo così. Avram vive in un mondo che è totalmente di fede, se si può chiamare così, fede pagana, idolatra, dove si adorano, si servono idoli, statue, ma anche e soprattutto gli astri e i pianeti. Avram già dalla sua infanzia vede con grande meraviglia la forza, la potenza delle forze della natura, ma approfondendo nel suo pensiero, meditando su questo, viene a capire che c'è qualcosa, un'unica cosa, dietro a tutto, che fa sì che tutto possa esistere, che crea tutto quanto. Infatti la tradizione racconta che Shehaya Avraham ben Shalosh Shanim, quando Avram aveva 3 anni, Yatzah min ha-Me'arah, è uscito dalla caverna nella quale si trovava. Hirher be-libo, pensò dentro di sé, mi bara shamayim va'aretz. Un mi barauti, chi è che ha creato questo cielo e questa terra? Chi è che ha creato me? E vide la forza del sole e pregò al sole. Quando il sole tramontò e venne fuori in evidenza la luna, vide tutte le stelle attorno alla luna e disse sicuramente allora è la luna il capo. È la luna il creatore. E così pregò la notte, pregò la luna. Quando di nuovo viene fuori, sorse il sole, allora si rese conto dentro di sé e disse: nessuno dei due è il creatore, né la luna né il sole. C'è qualcuno che li comanda. A lui pregherò. A quel qualcuno mi prostrerò. Questa scoperta di Avraham non se la tenne per sé. Questa scoperta fu qualcosa che lui decise di condividere con gli altri, anche facendo dibattiti, anche entrando in discussioni con la gente del suo luogo, che era Ur Kasdim, e ha usato anche maniere creative per trasmettere il suo messaggio. Per esempio, il Midrash ci racconta Terach, che era il padre di Abraham, la sua attività commerciale era quella di fabbricare e di produrre gli idoli, statue, statuette o altri oggetti che venivano usati come idoli, venivano adorati dalla popolazione. Un giorno il padre fece un viaggio e incaricò il suo figlio a prendersi cura dell'attività per quel giorno. La gente veniva a fare i loro acquisti e Abraham diceva al cliente: quanti anni hai? Rispondeva: 50 anni, 60 anni. E Abraham diceva: ah, mamma mia, ahimè, ahimè a te, che tu hai 50 anni, 60 anni e ti prostri e adori un oggetto che è stato creato ieri, che è stato formato un giorno fa. E questo si sentiva in imbarazzo il cliente e se ne andava. Faceva presente che quell'atto era un atto folle, che non aveva senso. Un giorno arrivò una volta entrò una donna che in mano aveva un po' di farina. In un piatto, in un contenitore, aveva della farina. Disse lei ad Abraham: ecco, prendi questa farina e portala come offerta a questi idoli. Cosa fece Abraham? Prese un bastone e ruppe tutti quegli idoli. E poi lasciò però l'idolo, la statua più grande tra di loro. Prese il bastone e lo mise in mano all'idolo grande. E quando tornò il padre e disse: ma cos'è successo qui dentro? Disse: beh, ti dico tutta la verità. È entrata una signora con un contenitore di farina, fior di farina, solet, e mi disse: porta questo sacrificio, porta questa offerta agli idoli. Gliel'ho portati. Essi sono messi a litigare. Uno diceva: no, è mia la farina. L'altro diceva: no, è mia. Io prendo per primo, io prendo per secondo. E così è arrivato il più grande e li ha fatti tutti fuori. Gli disse il padre: ma mi stai prendendo in giro? È chiaro che non possono fare assolutamente nulla e capire assolutamente nulla. Disse il figlio: ascoltino le orecchie ciò che la bocca ha pronunciato. Il padre Terach sentì che dovette portare Avram davanti alle autorità perché chiaramente si trattava di una situazione sembrava di anarchia contro quello che era la norma in quell'epoca, in quel luogo. Quindi lo portò, perché magari se non l'avesse fatto sarebbe stato lui in pericolo, Nimrod e il padre Terach, lo portò quindi al re di quel posto che era Nimrod. Nimrod gli disse: prostrati come si adora un idolo, un dio, davanti al fuoco. Gli disse Abraham: beh, non è forse meglio prostrarsi all'acqua che spegne il fuoco? Dice: va bene, prostrati all'acqua. Ma non è meglio prostrarsi alle nuvole che trasportano l'acqua? Dice: bene, prostrati alle nuvole. Dice: beh, non è meglio prostrarsi al vento che fa spargere le nuvole e le porta via? Dice: ok, prostrati al vento. Dice: beh, forse possiamo prostrarci ad un essere umano che ha dell'aria dentro di sé? Dice Nimrod: perché stai parlando così tanto? Io e te ora inchiniamoci, prostriamoci davanti, come dicevo prima, al fuoco. Io faccio questo. Questo è il modo in cui io adoro il mio Dio. Ora, se sei così intelligente e non lo vuoi fare, ti butto dentro al fuoco, venga il tuo Dio e ti salvi. Il Midrash racconta che lì era presente anche Haran. Ci ricordiamo che la Torah ci aveva detto che uno dei fratelli di Abraham si chiamava Haran. Haran stava vedendo questa situazione e si è detto, vediamo un po', se Avraham dimostrerà di avere ragione e quindi in qualche maniera il suo Dio lo salverà da questo pericolo dell'essere buttato dentro la fornace, allora io dirò anch'io che sono dalla parte di Avraham, che tengo a cuore la stessa fede. Se invece Nimrod, il re, avrà la vittoria, io dirò che sarò che sono dalla parte di Nimrod. Bene? La storia racconta che Abraham è stato buttato dentro la fornace ardente e che è stato salvato in qualche maniera. Ovviamente miracolosa. Dissero poi a Haran, tu da che parte stai? Disse, io sono dalla parte di Abraham. E quindi presero lui e buttarono anche lui dentro alla fornace. E cosa accadde? Non sopravvisse. E infatti la Torah ci ha detto nella parasha, la fine della parasha di Noè che abbiamo letto alla fine della lezione scorsa, che Haran morì quando il padre ancora era in vita. Cercheremo più avanti di commentare questa storia, ma noi vediamo da tutte queste descrizioni dei Midrashim che Abraham era quello che teneva in alto lo stendardo della fede in un unico Dio e che sarà quello che diventerà, come vedremo nella parasha che stiamo studiando, Lech Lecha, sarà quello che diventerà il portatore, il profeta, se vogliamo, di questo messaggio per tutto il mondo e tramite la sua progenia anche per tutti i tempi. Da qui la parola ivri. Siamo abituati a Roma a sentire gli ebrei chiamati con il termine in ivrim, che viene dall'ebraico ivrim, con la ain, e anche la parola stessa ebrei, ebreo, deriva da questa parola. Questa parola ha diversi significati, ma la parola ever in ebraico significa anche un lato, e i Chachamim ci dicono anche questo nome allude all'atteggiamento di Abraham, e cioè tutti si trovano da un lato, lui non è conforme, lui si trova dall'altro lato. Questo era il modo di fare di Abraham, quello di fare ciò che è giusto perché è giusto e non perché la moda lo richiede o il trend lo richiede, anzi, al contrario. Tutti gli stavano contro. Ora, se è così importante tutto questo nella storia di Abraham, perché la Torah non ce ne parla? Abbiamo visto le parole del Ramban che ha detto che tutto ciò che accadde con i nostri avi è una lezione per noi. Beh, è una lezione così importante perché la Torah non ce lo spiega, non ce lo trasmette. Forse però in maniera allusiva la Torah ce lo dice. Che cosa ha detto Hashem ad Avram in questi versetti che abbiamo citato? Gli ha fatto una promessa e una benedizione. Gli ha detto che renderà grande il suo nome e che benedirà coloro che lo benediscono e coloro che lo malediscono saranno maledetti. Quindi significa questo che il nome di Abraham non è ancora così grande. Il suo messaggio non è ancora così ben noto alle popolazioni di quel tempo. Forse sono più quelli che lo malediscono che quelli che lo benediscono. Ecco perché la Torah esprime la benedizione di Hashem in questa maniera. E infatti il Ramban fa presente che questo è alluso nelle parole della Torah e ci dice: il suo nome diventerà grande, la gente si benedirà con lui. Si benedirà con lui significa che una persona dice all'altra: magari potessi essere come Abramo. Oppure quando nasce un bambino, gli auguri sono: potesse questo bambino essere come Abramo e così via. Perché quando era nel suo luogo natio, ad Ur Kasdim, non era così. era mal visto, era maledetto, il suo nome era un nome disprezzato ed era stato buttato nel pozzo, era stato buttato nella fornace. E quindi la Berakhah qui allude a questo, allude che da questo momento in poi questo cambierà per Abramo nella sua vita. Ma la Torah ne parla solamente appunto in maniera allusiva. Secondo voi perché però la Torah non ne parla in maniera chiara? Potrete anche scrivere o farmi sapere i vostri pensieri a riguardo, ma vorrei citare tra tutti i molti commentatori che ne parlano un commento del Maharal di Praga, Rabbi Yehuda, grande maestro circa 5 secoli fa a Praga. E il Maharal di Praga scrive che la scelta che HaKadosh Baruch Hu scelse Abraham come la persona giusta per trasmettere il suo messaggio non era una scelta della persona specifica, bensì si trattava di una scelta del popolo ebraico, la progenia di Abraham. Infatti, nella stessa Berakhah che abbiamo letto, ora nei versetti c'è scritto Veseh otcha legoi, Veescha legoi gadol, farò di te una grande nazione. Qui il soggetto della benedizione non è solamente la persona, ma soprattutto è ciò che uscirà fuori, ciò che verrà fuori da questa persona. È una scelta generale, collettiva. Ed è qualcosa di particolare che non può essere legato ad una determinata azione, ad un determinato comportamento. Perché se fosse una scelta di un'unica persona, allora, cioè che HaKadosh Baruch Hu, se scegliesse questa persona, allora è chiaro che bisogna sapere la storia e tutti i dettagli di questa persona, perché la scelta è legata a quel comportamento. La Torah qui ci sta dicendo, non dipende solo da quello. È qualcosa che è voluto da Kadosh Baruch Hu per l'eternità e il comportamento, anche se non sarà consone alla volontà divina, non cambierà questa cosa. Il patto ci sarà sempre tra Kadosh Baruch Hu e questo popolo. Ed ecco perché, dice il Maharal, la Torah non parla della grandezza di Abramo prima della prima rivelazione di cui appunto vediamo qui Dio apparve ad Abramo, prima di questo momento ai 75 anni non gli apparse mai. E questo perché? Perché la grandezza di Abramo sta proprio nel fatto che la Torah non menziona il suo comportamento così importante. Per dire che l'amore di HaKadosh Baruch Hu nei confronti di Abraham non si limita a quel comportamento, come dicevamo prima, va avanti per tutta la sua futura progenia ed è un amore incondizionato. Se fosse per un comportamento o per un modo di fare o per un altro, allora sarebbe un amore condizionato a quelle condizioni, a quelle circostanze, a quei modi di fare. La Torah ci sta dicendo che qui c'è un legame che prescinde da tutte queste cose ed è un amore incondizionato. Questo, secondo il Maharal, è il motivo per cui la Torah parte direttamente da qui e non dalle storie precedenti. Qui stiamo parlando della storia del popolo ebraico, non della storia di una singola persona. Il Maharal di Praga. Solo una breve nota biografica, nato nel 1520, morto nel 1609, uno dei più importanti maestri dell'ebraismo, diciamo, nell'epoca moderna, era un grande leader non solamente nel suo luogo, ma in generale in Europa, ed era un grandissimo autore. La figura del Maharal di Praga è molto molto nota nella nostra storia e tutt'oggi. Il Bet HaKnesset in cui lui pregava ed era il Rav della comunità di Praga è molto più antico diciamo, dell'epoca sua ed è ancora in piedi nella città di Praga, la si può visitare, si chiama Altnoi Shul. E molti turisti vanno a vedere questo Bet HaKnesset molto antico. Andiamo avanti. Avendo visto un po' ciò che c'è intorno, ciò che c'è dietro, un po' di background, veniamo alle parole stesse che abbiamo studiato nella Parashah. E vediamo qualcosa che potrebbe essere sorprendente. Quando si fa una richiesta a qualcuno di andare ad intraprendere un viaggio, di prendere la strada, la prima cosa che bisogna capire è qual è l'obiettivo, qual è la destinazione. Chiaramente. In che direzione almeno dobbiamo avviarci? La Torah invece fa il contrario di quello che si farebbe normalmente. Normalmente si metterebbe bene a fuoco la destinazione e si darebbe poca importanza al luogo di partenza. Invece nella Torah troviamo esattamente il contrario, appunto. La Torah parla con molti aggettivi del luogo di partenza, ma non individua il luogo di destinazione, il punto d'arrivo. La Torah dice: vai via, me arzecha, mi moladetecha, mi beit avicha, vai via dalla tua terra, dal tuo luogo in cui sei nato, da tua casa paterna. Dove però? Qual è la meta? È la Arez asher areka, la terra che ti dimostrerò. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa che HaKadosh Baruch Hu dice ad Abraham di andare via da tutto ciò a cui è abituato. Vai via dalle tue abitudini, vai via da tutto ciò che conosci, cambia strada. Torniamo al nostro commentatore Ramban, Nachmanide. Il motivo per cui la Torah dice, fa riferimento a tre elementi quando dice di partire, e cioè la tua terra, il tuo luogo natio e la casa di tuo padre. È perché questo è molto difficile per una persona lasciare tutto ciò, lasciare il luogo dove abita, lasciare la vita sociale, i propri amici, le proprie conoscenze, soprattutto se vi è nato in quel luogo e soprattutto se la sua casa paterna, quindi da più generazioni, si trova in quel luogo. La Torah dice: tu devi lasciare tutto questo per l'amore che provi per HaKadosh Baruch Hu. In altre parole, la Torah approfondisce questo aspetto per dire che Abraham qui era stato messo alla prova. Qual è la prova? Beh, abbiamo già capito che è una cosa difficile fare tutto ciò, però nella Hasidut, che spiega un po' l'aspetto interiore delle cose, vede in questo richiamo ad Abraham di andare via da tutto ciò per seguire una meta ancora non ben definita. È un richiamo ad ogni persona perché possa cercare di arrivare a quello che è lo scopo della propria vita, la propria missione, se vogliamo, di cercare di innalzarsi, di trascendere quegli aspetti del proprio carattere che potrebbero fermare la persona, che potrebbero inibirlo ad andare avanti e metterlo in un posto che diventa un punto di partenza vero, un punto di crescita vera. E questo dipende da tre cose, sono i tre punti di cui la Torah parla. La prima cosa, ci sono dei tratti caratteriali naturali, assolutamente naturali, con la quale la persona nasce, con i quali la persona nasce, che però potrebbero fermare la persona, potrebbero essere degli impedimenti per la crescita. La seconda cosa, l'educazione che uno ha avuto nella vita dalla sua casa, dai suoi genitori, dalla famiglia. E poi, in terzo luogo, l'influenza che deriva non dalla famiglia, ma dalla società in generale. HaKadosh Baruch Hu dice ad ognuno di noi: esci fuori dalla tua terra. La terra indica la cosa più naturale. Cioè, in questo senso è un'allusione ai tratti caratteriali naturali della persona, ciò che geneticamente ci è arrivato. Dal tuo luogo di nascita, e cioè l'effetto che la società intorno a te ha su di te, sul tuo modo di fare, anche sul tuo modo di pensare. E la terza cosa, mi beit avicha, dalla tua casa paterna, e cioè l'influenza dentro casa, della famiglia. dove devi andare, e la Arez Asher Areka, alla terra, la meta che è stata per te indicata, che è stata per te segnata dall'alto, ma che forse ancora non sai bene quale sia. Intanto mettiti in moto. Proseguiamo con i versetti e vediamo come Avram si è messo in mosso, si è messo in moto. Al versetto numero 4, torniamo a quello che abbiamo già letto. Abbiamo visto che Avram appunto è partito, così come il Signore gli aveva comandato. Aveva 75 anni. Con Avram e Sarai, con questa coppia, c'è anche Lot, il nipotino che era orfano, perché come abbiamo visto la storia aveva perso il padre Haran. E cosa fanno? Ho perso un attimino il testo, ecco. E allora vanno, prendono tutti i loro beni e tutte le anime che hanno creato e vanno da Haran verso la terra di Canaan. Il fatto di aver preso con sé tutti i propri beni è indicativo della loro emunà, della loro fede. Non hanno detto: beh, noi intanto prendiamo due valigie e poi, se riusciamo a stare bene lì, facciamo mandare il container via mare o una cosa simile. No, direttamente con la fede portano tutto quanto quello che è, quelli che sono i loro beni. Appunto, questa cosa è indicata da uno dei commentatori, Rabbi Yosef Bechor Shor, a cui abbiamo fatto riferimento nella scorsa lezione. Questo è l'esempio che Abraham dà, che quando intraprende il viaggio voluto da Kadosh Baruch Hu, per lui è una cosa assolutamente definitiva. E poi le anime che hanno fatto. Ho detto prima che vedremo cosa vuol dire questa cosa. Cosa significa le anime che hanno fatto? Rashi spiega la cosa in senso molto molto semplice e nel contesto dell'epoca e i termini che si usano qui vuol dire semplicemente, secondo Rashi, avadim ushfachot shekanu lahem. Si tratta degli schiavi che avevano acquistato. All'epoca i beni di una persona erano anche beni umani, schiavi. E quindi i beni e le anime, inteso questo anche sotto la voce generale di beni, tra virgolette, così si usava, erano gli schiavi. Ma poi un'altra spiegazione, aggiunge Rashi. E questa meno letterale, ma più profonda. Annefesh asher asu beharan, le anime che avevano fatto a Haran, dice Rashi, Sheikh Nisan tachat kanfei Shekhinah, erano le persone che loro avevano convertito da un modo di vivere pagano ed idolatro e li hanno portati sotto le ali della Shekinah. Per così dire, sotto le ali della presenza divina significa alla fede in HaKadosh Baruch Hu. Avraham megayere et ha'anashim, Avraham convertiva, convinceva e convertiva gli uomini, quindi facevano proselitismo per portare la gente ad avere fede in HaKadosh Baruch Hu. Attenzione, non stiamo parlando di un ghiura all'ebraismo che ancora non esiste come lo conosciamo noi. È un ghiur mentale, un modo di pensare diverso e anche nell'agire non più come uno agiva in precedenza adorando altri dei. Vesara megayere tetanashim sarà invece, faceva convertire le donne, umale. Allah Alehem HaKatuv che Ilu Asaum fa riferimento al fatto che la Torah usa il termine le anime che loro fecero, come se li avessero creati loro, come se queste persone fossero create da loro. E il Rashi, appunto citando i Midrashim, dice: certo, è come se li avessero fatti loro, perché se tu porti una persona ad una vita corretta spiritualmente parlando, quindi insegni e fai da esempio e fai cambiare quella persona, che la persona cambia la sua vita in bene, allora è come se tu l'avessi fatto, è come se tu l'avessi fatto nascere. Quindi le persone, le anime che avevano fatto è un'allusione alle persone, alle molte persone che sono venute via da una fede pagana ed hanno abbracciato una emunà, una fede in Akadosh Baruch Hu. E la Torah continua a descrivere, come abbiamo letto, che Avram è arrivato fino al luogo di Shechem, la città di Shechem, che in italiano si dice Nablus, fino al luogo che si chiama Eilon Moreh, come abbiamo citato, la pianura di Moreh, e i Cananei erano allora nella terra. Quindi Avram entra nella terra stessa. La pianura di Shechem, che si chiama anche Eilon Moreh, e in quell'epoca i Cananei stanno conquistando quella zona, ok? E la zona era in mano ai figli di Shem, i Semiti, Shem il figlio di Noè, e invece i Cananei che sono figli di Kenan, di Ham, figlio di Noè, sono quelli che stanno cercando di conquistare tutte queste zone in quel periodo. Il Signore in quel punto si rivela ad Avram, come abbiamo letto, e gli dice: questa terra sarà tua. Quindi la terra sta andando conquistandosi dai figli di Canaan, ma Kadosh Baruch Hu dice ad Avram: no, non sarà così alla fine. Alla fine io ti prometto che questa terra tornerà ai figli di Shem. Abraham è uno dei discendenti di Shem. Tornerà ai figli di Shem e per ringraziare, per dimostrare la propria gratitudine, Avraham crea una situazione di preghiera, quindi di sacrificio, di offerta verso HaKadosh Baruch Hu, e crea un altare, costruisce un altare. Prosegue e costruisce un altare in un secondo luogo, pubblicizza il nome di Hashem, invoca il nome di Hashem nel suo richiamo verso le altre persone. Qui vediamo nella Torah stessa come Abraham si rivolgeva agli altri facendo un richiamo al nome di Hashem, cioè invocando il nome di Hashem, facendolo conoscere, facendolo rispettare e adorare. Ora, di nuovo, tutti questi viaggi non sono viaggi così, contengono delle allusioni per il nostro comportamento. Abbiamo detto, un siman, un segno, quindi un'indicazione per noi. Avraham è entrato in questo momento in quella che diventerà Eretz Israel. Il suo nipote Yaakov, dopo che tornerà, quando tornerà in Israele, essendo stato per molto tempo presso lo zio Lavan, Labano, tornerà anche lui in questo stesso luogo, entrerà in Eretz Israel dalla parte di Shechem. Il popolo intero di Am Israel, quando entrerà nella terra con Yoshua, con Giosuè, dopo la morte di Moshe Rabbeinu, entrerà anche attraverso uno di questi luoghi menzionati. Scusate, menzionati qui, che è la città di Ai, che è stata menzionata in questo versetto. Come vediamo, Maaseh Avot Siman Labanim, tutto ciò che accade con i padri ritorna con i figli. Allora, cosa abbiamo detto? Una persona sembra sconosciuta, Avram, riceve una indicazione dall'alto, in una grande rivelazione dall'alto, profetica, che dovrà lasciare la sua terra e andare verso il luogo che gli sarà dimostrato. Abbiamo approfondito, abbiamo visto che questa persona non è venuta fuori dal nulla con l'aiuto di alcune fonti, ed è la persona che ha svelato al mondo, se possiamo dire così, l'esistenza di HaKadosh Baruch Hu, l'esistenza di un unico creatore. Ed è quello che ha portato molte persone a questa fede, ed è quello che non rappresenta solamente la figura stessa di Abramo, come dicevamo prima, ma rappresenta come patriarca, primo patriarca del popolo ebraico, rappresenta l'intero popolo ebraico, e le sue azioni e gli atti che ha intrapreso sono indicativi per tutta la progenie, per tutto il futuro di Am Israele, fino ai nostri giorni e ancora al di là. questo in generale. Se volessimo approfondire un pochino, quando la Torah dice all'inizio di questa parasha, Lech lecha me'arzecha umimoladetecha umibetavicha, vai via dalla tua terra, dal luogo natio tuo e dalla tua casa paterna. Abbiamo toccato prima un po' questo fatto, perché questa specificità nell'entrare nel dettaglio. Prima dalla tua terra, e poi dal tuo luogo natio. Beh, è chiaro, se lui va via dalla propria terra, esce fuori anche dal luogo in cui è nato. Quindi sembra una ripetizione. Il commentatore Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, dice che la motivazione è questa. Quando una persona lascia la propria terra, la difficoltà è minore rispetto a lasciare anche il luogo in cui è nato. E lasciare il luogo in cui è nato è meno difficile rispetto a lasciare la propria casa paterna, la propria casa di famiglia. E quindi queste tre sono delle fasi che vanno dal più facile o dal meno difficile al più difficile. E la Torah ci vuole indicare che per ogni passo, per ogni fase, per ogni livello di difficoltà, ad Avraham spettava sempre più riconoscenza, sempre più ricompensa, se vogliamo. Simile a questo troviamo nel momento in cui Avraham verrà, questa è la prima prova alla quale viene messo Avraham. Ora le fonti ci spiegano, e la cosa è scritta anche sulla Mishnah di Avot, che Avraham è stato messo alla prova 10 volte, l'ultima delle prove, la decima prova alle quali è stato sottomesso Avraham, era la prova della Akedah, la legatura di Yitzhak. E lì troviamo un linguaggio simile a questo. Molto interessante far notare l'affinità di termini usati o di modo di esprimersi nel introdurre la prima prova, che è questa, e l'ultima, che è la legatura di Yitzhak. Perché anche lì è scritto, prendi tuo figlio, tuo figlio unico, tuo figlio che tu ami, Yitzhak. Quindi anche qui la Torah usa questi termini che vanno a rendere più difficile, ad indicare quanto è difficile questa prova. Un altro commentatore è quello che si chiama nel mondo delle yeshivot il Bartenura. In italiano possiamo dire anche Bertinoro, perché si tratta di Rabbi Ovadia, di una località in Italia, se non sbaglio in Emilia-Romagna, che è Bertinoro, è un grande maestro che ha commentato la Mishnah, è molto famoso per il suo commento alla Mishnah, un maestro che ha fatto l'Aliyah dall'Italia, è andato in Eretz Israel e ha scritto anche un diario del suo viaggio molto interessante. Lui scrive su questo nostro versetto. Perché la Torah ha indicato questi tre aspetti che Avram dovrà lasciare, per indicare che tutti e tre questi aspetti erano uguali, per quanto non erano buoni, per quanto erano cattivi, cioè la difficoltà di confrontarsi con delle idee nocive alla spiritualità della persona, al proprio legame con HaKadosh Baruch Hu. Era una difficoltà con la quale Avram doveva confrontarsi non solamente in generale nella terra in cui si trovava, ma anche nel luogo specifico in cui viveva, il suo luogo natio, ma non solo, anche addirittura nella sua casa di famiglia doveva lottare per queste idee. Poi la Torah dice. Molto interessante questo commento. Poi la Torah dice: Vavarcha mevarachecha umkalelcha aor. Io a Kadosh Baruch Hu benedirò chi ti benedice, e saranno maledetti coloro che ti malediscono. Perché è importante dire questo ad Abraham? Non è tanto per dire così una benedizione. Uno potrebbe dire: ti do una berachah, ti do una grande benedizione, che tu possa avere successo in tutto ciò che desideri. Perché esprimerlo proprio in questa maniera qui? Benedirò chi ti benedirà e chi ti maledirà sarà maledetto. Il Bechor Shor, che abbiamo citato già prima, dice: Il significato di queste parole è come se avesse detto: io amerò coloro che ti ameranno e odierò coloro che ti odieranno. In altre parole, sto con te, hai un appoggio, non sei solo, non sei uno che non ha un qualcosa al quale appoggiarsi. Come per dire, se qualcuno mi odierà, se qualcuno mi vorrà male, a chi mi potrò rivolgere? A chi mi potrò appoggiare? E se qualcuno invece mi vorrà bene, se qualcuno farà del bene con me, se qualcuno mi amerà, come potrò ripagarlo? Qualcuno che ha una base di supporto può dimostrare riconoscenza anche con questa base di supporto. Ma io che base di supporto ho? HaKadosh Baruch Hu con queste parole gli sta dicendo entrambe le cose. Io sono la tua base di supporto per coloro che ti vorranno bene e sono la tua protezione per coloro che ti vorranno male. È molto interessante anche perché il fatto di seguire una via indicata da Kadosh Baruch Hu, il fatto di anche impegnarsi, sforzarsi, sacrificarsi per seguire questa via, non è una garanzia che sarai amato da tutti. Infatti la Torah dice: c'è chi ti amerà e c'è chi ti odierà. Non c'è nessuna garanzia che nel momento in cui si fa ciò che è giusto, questo sarà riconosciuto da tutti. Anzi, come vediamo da questo versetto qui. E Avram andò, come gli aveva detto il Signore, e andò verso la terra di Canaan. Aspetta, ma abbiamo detto che la destinazione non era stata indicata. Dove c'è scritto vai verso la terra di Canaan? Non c'è scritto. C'è scritto almeno qui nella Torah, c'è scritto vai verso il luogo che ti sarà indicato. Come sapevano di andare proprio lì? Allora uno dei commentatori, il Tur, Rabbeinu Yaakov, autore del Tur, dice che Avraham in realtà non è andato diretto lì, è andato da un posto all'altro, da una nazione all'altra, finché non giunsero Avraham e la sua famiglia alla terra di Canaan. E lì ci fu la rivelazione in cui, appunto, abbiamo letto che HaKadosh Baruch Hu disse: questa terra sarà data a te, alla tua progenie. L'autore del Tur, questo commentatore, trova degli appoggi testuali, che ora non cito perché sono di di un'altra parasha, che alludono a quest'idea che Abramo non andò diretto, bensì andò da un posto all'altro finché non arrivò in terra di Canaan e ebbe questa rivelazione. Il Tur dice: questa è una spiegazione, ma dice anche che può darsi che Abraham aveva qualche maniera per sapere che questa era l'intenzione già dall'inizio e che quindi intraprese la direzione generale verso quel luogo. Quindi dice: ci sono due maniere di vedere questa cosa. Nella seconda spiegazione non sappiamo come Avram avrebbe potuto saperlo. I versetti vanno avanti e noi andremo appresso a loro nella prossima lezione. Spero che la lezione sia stata di vostro gradimento e vi auguro tutto il bene.